everybody. This is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Under Us on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Bella raga, sono Pietro. Anche di Solo Vinili Libri, io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Invasion. Minuti primi, torniamo in voce qui a Radio Onda Rossa dopo Allegro con Fuoco. Siete sempre all'ascolto degli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa e questo è l'appuntamento del giovedì sera dalle 21 alle 22. Un'ora concentrata sulle autoproduzioni. E questa è Do It Yourself Invasion. Ricordiamo brevemente i contatti della radio. Partiamo dal sito raggiungibile al www.ondarossa.info, sito attraverso il quale potete ascoltare la radio oltre le barriere dell'FM, quindi andando a cliccare su Ascolta. Radio Onda Rossa, progetto nato libero nel 1977, senza padrini, senza padroni. Che per continuare a trasmettere ha bisogno del vostro sostegno. E quindi potete farlo sempre attraverso il sito, andando a cliccare su Sostieni. Sarete indirizzati a una pagina di PayPal. Radio che sta attraversando in questo momento un periodo di difficoltà, quindi fatevi sotto, sostenete la radio. Partecipate alle nostre iniziative, più tardi insomma ve ne racconteremo un po' di quelle in programma. Se non l'avete ancora fatto, sono sempre disponibili qui in radio le nuove Scarceranda 2016. E quindi Scarceranda più quaderno, 12 euro. per ogni agenda acquistata ne sarà inviata una a chi si trova recluso. Quindi se volete indicarci a chi spedirla potete farlo. L'email di redazione è ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione, potete scriverci a fantasma@ondarossa.info. Per proporci le vostre autoproduzioni saremo ben felici di passarle su queste frequenze. Nonché potete segnalarci iniziative e quant'altro. Insomma, fatevi sotto fantasma@ondarossa.info. Non per ultimo il numero di telefono 06 49 1750. E sotto le mie chiacchiere introduttive stiamo ascoltando l'ultimo lavoro dei Dystopian Society da Firenze, visti dal vivo recentemente proprio al Next Emerson di Firenze, al Benefit per Paola, che ha visto l'unione di vari gruppi che costituiscono appunto l'ossatura del Next Emerson. E noi da Firenze ci spostiamo a Latina. Loro sono i Misanthropus, passati già più volte dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Ce li ascoltiamo dal loro primo lavoro del 1998. Lavoro uscito solamente su vinile inizialmente. Quindi dal primo vinile autoprodotto dei Misanthropus, che iniziava così.

E questi erano i Tetano da Benevento, dal loro dischetto del 2005, Di Stato si muore. E ci spostiamo a... ci riprovo, ci spostiamo a Foggia. Loro sono in Nice. Da Presaggi di un'insulsa rovina, uscito nel 2008. Quindi andiamo a chiudere il trittico di quello che vedremo questo weekend a Torre Maura per i 24 anni di occupazione. Mentre ci rispostiamo a Napoli per una richiesta che ci arriva da Valerio. E loro sono in Motosega. Dal loro lavoro intitolato No. da Napoli ci spostiamo a Milano. Una Milano gelida, ghiacciata. Loro sono i Kalashnikov Collective. Qui li ascoltiamo dall'ultimo lavoro, L'algebra morente del cielo, una coproduzione internazionale. Che ha visto anche Radio Onda Rossa, insomma, in veste di coproduttrice. Disco uscito su vinile. Insomma, se vi è capitato, insomma, di avere tra le mani una produzione, un'autoproduzione dei Kalashnikov, sapete quanto amore ci mettono. E quindi grafiche da paura, copertina apribile. Lo potete ancora trovare qui negli studi di Radio Onda Rossa o durante le iniziative al banchetto della radio. Loro sono i Kalashnikov Collective, questa è la loro Milano Antartica. E questo dischetto è uscito da pochissimo. Loro sono i Eight and Merda, da Firenze. E quindi del loro ultimo lavoro, dal titolo La capitale del male, ci ascoltiamo la loro Vai via. E ricordiamo l'appuntamento di questo sabato 23 gennaio, presidio al CIE di Ponte Galeria, in solidarietà con le persone imprigionate. Dalla rivolta dell'11 dicembre la sezione maschile è distrutta e vuota, ma data l'intenzione di ristrutturare e fortificare il CIE, non sappiamo ancora per quanto. Nel frattempo il CIE di Ponte Galeria è l'unico ad avere una sezione femminile funzionante, nella quale sono recluse circa 40 donne tra espulsioni ed ingressi continui. Dopo la riapertura del CIE di Brindisi, lo stadio dichiara di voler riaprire anche quello di Via Corelle a Milano. E quindi sosteniamo la lotta delle persone recluse. Fuoco a tutti i CIE. L'appuntamento è alle ore 15 alla stazione Ostiense per andare insieme al CIE. E quindi questo sabato 23 gennaio. E dopo questo interessante lavoro degli 8 e merda, è uscito da pochissimo l'ultimo lavoro dei Mar Nero, La Malora, il capitolo conclusivo che va a chiudere la cosiddetta trilogia del fallimento. Siamo curiosi di vederli dal vivo, prossimamente saranno qui a Roma. Vi lascio all'ascolto dei Mar Nero, questo da loro, La Malora. senza guardare, senza gioire, senza... E ci avviciniamo alla chiusura di Do It Yourself Invasion. Volto le spalle ancora una volta, unisco alla polvere che... Loro da Anguillara Sabbazia, le folk noir. C'è chi sbraccia qui all'interno degli studi di Radio Onda Rossa. Io rinasco, vorrei essere la... Con questo pezzo diamo il benvenuto a Fongis di Apostasia, quindi restate all'ascolto. Autorità, un bimbo che piange, una barca che va. Noi rimaniamo in attesa dell'uscita del lavoro delle folk noir. Sappiamo insomma che stavano preparando questo disco, li attendiamo con ansia. Sale del mare, notte, sole. Questa ce la riscoltiamo da capo, eh? Le folk noir, mi unisco alla polvere. Senza guardare, senza gioire, senza un sorriso prima di partire. Volto le spalle ancora una volta, unisco alla polvere che nel vento soffia. E se io rinasco vorrei essere dappertutto, un filo che attraversi il lago di ogni minuto. Una risata in faccia all'autorità, un bimbo che piange, una barca che va. Stringi la mano ad un vecchio che muore, guarda come il tempo ha solcato le rughe. Sale del mare, notte, sole e vento, tutto in un sospiro, in un solo lamento. Il tempo che abita nel fiore d'inverno, nell'aria infetta di ogni singolo infermo, nella ruota che gira nella felicità, nel deserto che avanza, nella sete che avrai. Sempre, questa è la norma, ma nulla si distrugge, tutto si trasforma. Sangue che scorre, diventa fiume, voce che canti, trasformati in rupe. Che i miei sogni giovanili non diventino solo sabbia, ma che scorrano nell'oceano come un'onda che avanza. Che i miei limiti ottusi diventino libertà, che mia figlia cresca forte e creda a me finché vivrò. Sempre, questa è la norma, ma nulla si distrugge, tutto si trasforma. Sangue che scorri diventa fiume, voce che canti trasformati in rupe. Che i miei sogni giovanili non diventino solo sabbia, ma che scorrano nell'oceano come un'onda che avanza. Che i miei limiti ottusi diventino libertà, che mia figlia cresca forte e creda a me finché vivrò. questo è uscito da pochissimo. Un 7 pollici su 3 lati. Col passo sbagliato era un artista, un pittore d'amore. Cresciuto e guastato. Per quanta pioggia cadrà. Su 3 lati, perché da un lato c'è un pezzo di Filippo Andreani. Su un altro lato, Patato, che già ascoltiamo in sottofondo. E poi c'è un terzo lato, il lato C, che è un librettino con delle strisce inedite di Zero Calcare. E quindi un 7 pollici su 3 lati per quanta pioggia cadrà. E questo è Patato con Ricorda il tuo nome. E quindi un saluto e un ringraziamento a tutte e tutti all'ascolto. Il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale. Rimanete all'ascolto, perché tra poco c'è Apostasia. Questa ce la riascoltiamo da capo, però, Non si scalda d'inferno mentre prega i danni. Patato! Mi ha marchiato per sempre, demente. Luca era nato col passo sbagliato, era un artista, un pittore d'amore. Cresciuto e guastato a monte spaccato, dove Roma si appoggia a nord. E sulla fedina furto scasso e rapina, in una banda che non sbaglia mai. E a sepoltore pipia dentro se per un bimbo che non saprà mai. O luna che attendi la notte, che scende da volge il cantiere. Lei è arrivato da Pazzi a Braccian. Il suo dottorato è carta stracciata da una mano. Vediamo se va. Prima in Romania, poi in Bosnia, in Turchia. Cristian 36 anni e lo sguardo freddo. Se scoppia l'inferno, si scalda d'inferno mentre prega ed annega in un lurido paro. Luna che attende che scende da volge il cantiere, illumina i volti distrutti, ricorda le nostre preghiere. Destino è un vigliacco, a volte sta vita fa male, ti toglie la luce dagli occhi, ricorda il tuo nome, ricorda il tuo nome.